La giornata del curato d'Ars. Le confessioni dopo le veglie. Dal giorno in cui entrò in Ars, Don Vianney non abbandonò quasi mai la sua parrocchia. Fanno solo eccezione i 5 giorni che riservò agli esercizi spirituali a Meximieux o a Bourg-en-Bresse fino al 1835 ed una settimana di relativo riposo che si concesse nel 1843 in seno alla sua famiglia. Sono queste le sole assenze da Ars che dal 1830 il santo si permise. Ci sono nella sua vita anche fatti notevoli, tramandateci come una preziosa memoria dal racconto di fedeli, ma la sua esistenza sta diventando di una sublime monotonia. In ogni stagione dell'anno lavora 20 ore, passandone al confessionale 11 o 13 d'inverno, 15 o 16 d'estate. L'abitudine di recarsi in chiesa circa le ore 4 del mattino l'aveva contratta fin dai primi anni del suo ministero quando era vicario ad Écully. Diventato curato d'Ars, si alzò ancora più presto, non per vera necessità di ministero, ma per obbedire alla sua devozione, che lo spingeva vicino al tabernacolo con una forza irresistibile. Solo più tardi, quando la parrocchia fu da lui completamente trasformata, ci fu chi andò a cercarlo per le confessioni anche molto più presto, prima dell'alba. La preparazione era già data dalle veglie che si facevano ad Ars e che rimanevano per tradizione, ma con indirizzo mutato per opera del santo curato. Era la preghiera che le apriva e le chiudeva. Prima di rientrare a casa, a mezzanotte o a luna, le pie donne di Ars amavano passare al suo tribunale di penitenza. Anzi, avevano vera preferenza per queste confessioni notturne. Il santo, non ancora affaticato e spossato dall'assedio delle folle, riservava loro un'accoglienza amorevole e commovente e dava ai suoi parrocchiani tutto il tempo che era necessario o che si poteva desiderare. La parola di congedo era un saluto nel quale risuonava l'eco profonda della sua paterna carità. «Andate ora, figlia mia, andate a riposare, avete troppo sonno». Le buone donne di Ars avevano conservato di queste confessioni notturne un ricordo pieno di riconoscenza e di commozione, così che 20 anni dopo la morte del santo esse uscivano ancora in questa spontanea espressione: com'era bello confessarsi a quell'ora. Poi cominciò l'arrivo dei pellegrini e da allora Don Vianney suonò personalmente l'Angelus circa un'ora dopo la mezzanotte per indicare che la chiesa era aperta e che egli si trovava a disposizione dei penitenti. Intanto che aspettava, pregava in ginocchio davanti all'altare o recitava il suo breviario. «Come era bello ed edificante», ha scritto Caterina Lassagne, «vedere al pallido lume della sua candela questa figura sfinita dalla penitenza, pregare con grande raccoglimento e ogni tanto dare uno sguardo verso il tabernacolo con sorriso sì dolce che sembrava vedesse nostro Signore». Dal giorno in cui l'afflusso dei pellegrini divenne tale per cui Don Vianney non avrebbe potuto ascoltarli tutti, pur confessando notte e giorno, egli cominciò qualche volta ad alzarsi anche prima di mezzanotte, anche nel periodo più caldo dell'estate. Gianna Maria Shanai, una delle direttrici della provvidenza, che un giorno gli diceva: «Signor curato, oggi non avete detto le vostre preghiere del mattino», ci fa anche sapere che in simili circostanze il santo incoraggiava il suo corpo, promettendogli qualche momento di riposo durante la giornata, riposo che poi non concedeva mai. Il povero cadavere era costretto ad attendere la notte seguente per riposarsi un poco. «Lo inganno così», diceva l'incorreggibile asceta, che usava per questa povera spoglia mortale il trattamento riservato non solo ad uno straniero, ma ad un nemico. Per quanto si alzasse presto, i suoi penitenti erano già in attesa quando egli giungeva alla chiesa. Per lungo tempo, non essendosi pensato a creare nessun riparo, i pellegrini furono obbligati a passare la notte nel piccolo cimitero o nella piazza con una non indifferente penitenza. Solo nel 1845 fu costruito per le donne una specie di vestibolo a sinistra della chiesa vicino al campanile, giacché fin dai primi tempi, durante le ore della notte, furono ammesse a confessarsi solamente le donne. Don Vianney giungeva, rischiarandosi il passaggio col debole lume della sua lanterna dai vetri rotti, vestito già di cotta e stola violacea. Attraversato il vestibolo, apriva la porta della chiesa e subito i penitenti, come un fiume, si precipitavano verso il suo confessionale. Per alcuni minuti vi era un po' di rumore nel luogo santo, ma alcune donne di buona volontà, che in numero di circa una dozzina si davano il turno da una notte all'altra, pensavano subito a ristabilire l'ordine. Accendevano le lampade, suonavano l'Angelus e trovavano un posto per ognuno. Intanto il santo stava inginocchiato sui gradini dell'altare, elevando la sua anima a Dio e facendo a lui l'offerta di tutte le pene di quel lungo giorno ancora così lontano dalla sua aurora e che fin da quel momento supplicava Dio d'aver pietà dei poveri peccatori ed entrava nel confessionale. La messa del curato d'Ars. E non ne usciva se non verso le 6 in estate e le 7 d'inverno per la celebrazione della Santa Messa. Conosciamo quanta irregolarità di orario avesse in alcune sue azioni, come il mangiare o il dormire, ma quando si trattava della messa, il momento più santo della giornata non tollerava nessun ritardo. Un giorno una delle persone più distinte della sua parrocchia gli fece chiedere che il mattino seguente ritardasse un poco la messa per potervi partecipare, ma il santo diede questa risposta: «Ditele che è impossibile, si alzi più presto. Io non posso far perdere la messa a nessuno dei miei parrocchiani per causa sua». Il momento della messa. Dal suo volto era scomparsa ogni nube di tristezza ed ormai sembrava avere dimenticato la terra. Un giorno, secondo Caterina Lassagne, ebbe a dire confidenzialmente: «Io non vorrei essere parroco, ma sono contento di essere prete anche solo per poter celebrare la messa». Secondo il parere del suo confessore, tutto ciò che aveva fatto dalla levata fino a quel momento poteva essere considerato come un'eccellente preparazione. Ma egli voleva ancora alcuni minuti per meglio raccogliersi prima del santo sacrificio. Rimaneva immobile, inginocchiato sul pavimento del coro, con le mani giunte e gli occhi fissi al tabernacolo, e non vi era nulla che fosse capace di distrarlo in quegli istanti di intimità con Dio. Quando però ritornava in sacrestia, tollerava che gli si dicessero le parole assolutamente necessarie ed i pellegrini ne approfittavano per avvicinarlo mentre vestiva i sacri indumenti, raccomandandosi alle sue preghiere. Dava allora la sua risposta con un cenno del capo e, se vi erano degli indiscreti, sapeva allontanarli con un gesto. Vicino a lui stava poi uno dei fratelli della Sacra Famiglia che impediva lo si avvicinasse in troppi. Qualche volta ai suoi fianchi sorgevano anche discussioni per stabilire a chi dei laici o dei preti toccasse l'onore di servirgli la messa. Amava i paramenti ricchissimi e preziosi. Avrebbe voluto un calice d'oro massiccio perché il più bello che aveva non gli sembrava ancora degno di contenere il sangue di Gesù Cristo. Soprattutto gli piaceva l'altare maggiore con la sua base di marmo sulla quale erano scolpiti l'agnello, San Giovanni Battista suo patrono, San Sisto patrono d'Ars. Col suo tabernacolo di bronzo dorato e cesellato e il suo alto baldacchino ornato di pennacchi bianchi. Ma per lui la principale bellezza della chiesa era sempre il contegno esemplarmente edificante dei fedeli. La sua messa non era lunga oltre il tempo richiesto, cioè la mezz'ora. Per tutta la sua vita seguì il rito speciale della chiesa di Lione. Secondo tale rito, il celebrante, dopo la elevazione, rimane un momento con le braccia distese. E questo era il solo gesto che Don Vianney prolungava in un modo che impressionava. Dionigi Chalan, che gli servì la messa come chierichetto nel 1827 e che divenne prete, ebbe a dire: «Io ero colpito nel vederlo dopo la consacrazione con gli occhi e le mani levate rimanere per 5 minuti in una specie di estasi. Condividendo il pensiero dei miei compagni, ritenevo che vedesse Dio. Prima della comunione si fermava ancora un momento, come in conversazione con nostro Signore, ed infine consumava le sacre specie. Com'era bello quando celebrava!» esclama fratello Atanasio. «Lo si sarebbe detto un altro San Francesco di Sales». «L'ho visto qualche volta celebrare», ha detto Don Luigi Beau, suo confessore, «ed ogni volta mi è sembrato di vedere un angelo all'altare». Si veniva alla chiesa espressamente per edificarsi e contemplarlo durante la celebrazione dei divini misteri. Così fecero, tra le altre, anche persone ospiti al castello, le quali andarono alla messa solenne solo per avere l'occasione di vederlo e di osservarlo. Una persona della parrocchia, afferma la baronessa di Belvei, mi diceva: «Se volete imparare ad ascoltare bene la messa, mettetevi in un luogo ove possiate vedere il nostro curato all'altare». Io mi collocai in un luogo ove potevo osservarlo e scoprii nei suoi lineamenti qualche cosa di celestiale. Dai suoi occhi caddero lacrime durante quasi tutta la Santa Messa. La stessa cosa osservai ogni volta che mi recai ad Ars. Un artista riteneva non potersi descrivere l'espressione del volto del nostro santo all'altare. In lui non v'era neppure l'apparenza di una distrazione. Il suo contegno esterno riproduceva quello che passava nell'intimo della sua anima. Era nemico di ogni affettazione e non faceva nessun gesto esagerato o superfluo, ma pregava e contemplava coi suoi occhi elevati o chini e supplicava con le sue mani giunte o distese. Questo contegno era una predicazione muta, ma di un'eloquenza irresistibile, ed a più di un peccatore bastò averlo visto una volta per convertirsi. Così, ad esempio, un framassone che aveva consentito venire alla chiesa sentì il suo cuore trasformato appena contemplò il santo all'altare. Si aveva l'impressione sensibile che là non era solo, ma che stava con lui il sommo sacerdote, Gesù Cristo. Dal suo esterno era facilmente indovinabile la sua adorazione, perché ogni gesto, ogni sguardo, ogni movimento dicevano l'annientamento, il desiderio, la speranza, l'amore. Ed erano precisamente questi i sentimenti che passavano nella sua grande anima durante la celebrazione. Qualche volta, tuttavia, con questi sentimenti non mancarono il timore e la tentazione di disperazione. Un mattino fu così tormentato dal pensiero dell'inferno e dall'apprensione di perdere Dio per sempre che ebbe internamente questo gemito: «Almeno lasciatemi la Santa Vergine!» A Natale, durante la messa di mezzanotte, si cantò una volta un inno molto lungo. Secondo il rito di Lione, il sacerdote che celebrava doveva tenere la Santa Ostia sul calice da un certo momento fino al canto del Pater. Fratello Atanasio ci dice di averlo visto allora guardare quest'ostia avvolta con le lacrime, avvolta col sorriso. Poi sembrava parlasse, ritornando a piangere e di nuovo a sorridere. Dopo la messa in sacrestia gli fu chiesto scusa di averlo fatto attendere. «Oh, il tempo non mi è sembrato lungo. Ma, signor curato, cosa facevate quando avevate in mano l'ostia santa? Sembravate molto commosso». «È vero, mi era venuta un'idea strana e dicevo a nostro Signore: se sapessi che avrò la disgrazia di non vedervi per tutta l'eternità, vi terrei da questo momento e non vi lascerei più». Dopo la Santa Messa, Don Vianney, in cotta e stola, si recava davanti all'altare per fare il suo ringraziamento. Vi furono dei pellegrini che non temettero di avvicinarlo anche in quei momenti per scrutarlo con curiosa attenzione e di scambiare riflessioni sul suo conto. Ma egli rimaneva sempre immobile e sembrava non accorgersi di ciò che succedeva intorno, tanto era assorto in Dio. Non aveva detto egli stesso in uno dei suoi catechismi: «Quando si è fatta la comunione, l'anima si immerge nel balsamo dell'amor di Dio come l'ape fra i fiori?» Finito il ringraziamento, seppur poteva finire per quest'anima ardente di amor di Dio, entrava in sacrestia, ove trovava disposti sui mobili, dalla mano solerte del suo fedele sacrestano, gli oggetti da benedire e le immagini sulle quali doveva mettere il proprio autografo. Le iniziali GMBV venivano ripetute con velocità ed anche i gesti di benedizione occupavano poco tempo. Ma là attendevano anche anime afflitte, venute in cerca di consolazione, e nessuno doveva essere respinto. Anche qui, però, ogni pena doveva essere sollevata con risparmio di tempo e con poche parole, perché già gli uomini, che sapevano essere quello il loro turno, riempivano la navata della chiesa ed il coro. Dal 1827 in poi, Don Vianney, per obbedienza al vescovo e al medico, dovette rassegnarsi a prendere a quest'ora un po' di latte, del quale però si privava nei giorni di digiuno. Ma era sempre poca cosa e soprattutto poca perdita di tempo. Poi, dopo una capatina alla provvidenza, era di nuovo al suo confessionale e questa volta in sagrestia. La recita delle ore del breviario. Verso le 10 spiava il momento opportuno per recitare il suo ufficio da prima fino a nona. Quando un nuovo penitente entrava, lo faceva inginocchiare al confessionale pregandolo di continuare la sua preparazione, mentre egli si poneva sui gradini della sagrestia per cominciare la sua preghiera. Com'è bello, diceva, potersi riposare un poco così. Il breviario lo gustava, perché quantunque non avesse del latino che una comprensione imperfetta, una grazia speciale di Dio, gli svelava il senso profondo dei salmi. Quando penso a queste belle preghiere, diceva confidenzialmente, sono tentato di dire «Felix culpa», perché se Davide non avesse dovuto piangere i suoi peccati, noi non li avremmo. L'amore dai salmi passava al libro che li conteneva, il breviario, che secondo l'attestazione di Don Dailades, egli voleva sempre con sé e teneva quasi continuamente sotto il braccio. Un giorno, in cui il medesimo Don Dailades ne chiese la ragione, Don Vianney diede la seguente risposta: «Il breviario è il mio fedele compagno. Io non saprei andare in nessun luogo senza di lui». Un avvocato di Lione, che un giorno poté osservarlo a lungo durante la recita del suo breviario, ha vergato di lui queste righe piene di verità. L'espressione della sua fisionomia rifletteva i grandi sentimenti della sua anima. La sua bocca sembrava assaporare ciò che la sua anima aveva gustato. I suoi occhi erano illuminati e raggianti. Si sarebbe detto che egli respirava un'aria più pura di quella della terra e che, fattosi insensibile alle cose del mondo, non intendesse altra parola che quella dello Spirito Santo. Restava là, immobile, senza alcuna distrazione esteriore, immagine eloquente del raccoglimento interiore. Bastava vederlo per comprendere la verità di una frase sfuggitagli un giorno durante la preghiera. Le mosche non cadono nell'acqua bollente, ma solo nell'acqua fredda o tiepida. Il celebre catechismo delle 11. E finito il breviario, riprendeva le confessioni fino alle ore 11. A quest'ora usciva dalla sagrestia e si dirigeva verso la cattedra dei catechismi, un piccolo pulpito con una sedia di legno, con spalliere e predella, circondato da una barriera poco fitta. E questo è il luogo nel quale per ben 15 anni, cioè dal 1845 al 1859, in ogni giorno feriale il curato d'Ars tenne la spiegazione del catechismo ai pellegrini. È evidente che sotto il peso schiacciante di mille occupazioni non gli poteva più rimanere il tempo di preparare la sua istruzione delle 11, come del resto ogni omelia domenicale. Il maestro Pertinan ha detto che dal giorno in cui l'affluenza dei pellegrini non gli aveva lasciato più il tempo di preparare la sua predicazione, il curato Vianney aveva fatto una novena allo Spirito Santo per ottenere la grazia di poter parlare senza studio, e finita questa novena gli bastò salire in pulpito e lasciare libero sfogo all'ispirazione. Alla sua predicazione accorreva gente di ogni luogo e di ogni condizione, dal cristiano fervente e pio al bello spirito che pretende di sapere tutto tranne si intende la sua religione. Qualche volta, uniti ai pellegrini, stavano anche preti e vescovi. Ma ciò non preoccupava il nostro predicatore, che pensava solo alle anime e che si sarebbe presentato con uguale incantevole semplicità, senza nulla cambiare, anche se fosse accorso ad ascoltarlo il Santo Padre circondato dai suoi cardinali. Se non era comune il suo modo di predicare, era straordinario anche il modo di ascoltarlo. Si accorreva là non per udire un predicatore, ma per intendere la voce di un inviato di Dio, quasi novello Giovanni Battista, iniziato ai segreti dell'aldilà. Leggeva una domanda o due del catechismo con le relative risposte e riponeva il libro sulla mensa del pulpito, senza badare al pericolo, divenuto molte volte realtà che il piccolo volume scomparisse, rapito da una mano pia e indiscreta nel medesimo tempo, per essere conservato come una reliquia. Poi cominciava la spiegazione del testo, che era però presto dimenticato, perché la mente del santo si portava subito spontaneamente a quelle idee madri, come le chiamava un prete, che erano diventate come l'anima della sua vita spirituale, per averle sì a lungo vissute nella meditazione davanti a Dio. La sua parola era piena d'eternità. Il suo sguardo di fuoco si posava ora sull'uno, ora sull'altro dei suoi uditori, quasi avesse voluto fare penetrare fino in fondo al loro cuore la lama della sua parola, con la quale sferzava il vizio, malediceva il peccato e più spesso cantava le gioie e le bellezze dell'amor di Dio. Non a tutti arrivava il suono debole della sua voce, ma le sue grida ed i suoi singhiozzi erano sufficienti perché tutti si commuovessero fino nel più intimo del cuore. Nel settembre 1845 veniva ad Ars, quasi suo malgrado, una religiosa della congregazione di San Giuseppe, di nome Suor Maria Gonzaga, la quale aveva provato una certa antipatia per Don Vianney, perché era lontana dal credere a tutto quello che di meraviglioso si diceva di lui. Quando scendemmo dalla vettura, narrò ella stessa, suonava la campana del catechismo, ed avendo la mia superiora deciso di andarvi, fui costretta anch'io a seguirla. Appena entrata nella chiesa, i miei occhi si incontrarono con quelli del santo, che passava per andare al suo piccolo pulpito, e ne provai una specie di vertigine. Profondamente turbata, caddi a terra in ginocchio fino a quando mi sentii tirare per la veste da una donna, forse Caterina Lassagne, che mi prese per una mano consigliandomi ad avvicinarmi di più, perché in quel luogo non avrei inteso nulla. Mi lasciai guidare e giunsi fin davanti al piccolo pulpito, ma anche là non intesi che poche parole sulla conformità della nostra volontà al volere di Dio e sul merito dei patimenti. Ma piansi tutto il tempo ed i miei sentimenti nei riguardi di Don Vianney erano radicalmente cambiati. Circa la medesima epoca veniva ad Ars un medico di Lione con molti parenti ed amici. Non era un incredulo, in quanto era cresciuto con buoni principi, ma non aveva nessuna idea di ciò che fosse un santo e tantomeno dello spettacolo che lo attendeva. Era appena incominciato il catechismo e Don Vianney finiva di dire le prime parole quando il medico fu preso da una gran voglia di ridere. Tutti lo guardavano con più scandalo che meraviglia ed egli si sforzava di nascondere il viso fra le mani. Ma il curato parlava sempre e non erano ancora passati 5 minuti che dagli occhi del medico cominciarono a scendere lacrime non più dissimulate che gli bagnarono le guance. Pietro Oriol, un benestante di Pelussen nella Loire, più tardi stabilitosi in Ars e diventato uno dei custodi del nostro santo, lo vide per la prima volta quando faceva il catechismo e, come egli stesso ebbe a confessare, la prima parola che udì gli scese nel cuore e gli fu un rimprovero di tutta la sua vita. L'uditorio viveva col predicatore e quindi con lui si commuoveva e piangeva, mai però come il santo stesso. Un giorno in cui, predicando sulle miserie dei peccatori, egli gemeva come al solito, il raccoglimento fu rotto da un'esclamazione sfuggita ad una donna. «Oh Signore, date a me una di queste lacrime!» Ma l'emozione varia secondo i cuori e le loro disposizioni, e neppure in Ars tutti i cuori erano ugualmente colpiti. Don Teodoro Vibot di Roubaix, divenuto poi superiore nel seminario di Saigon e protonotario apostolico, ebbe infatti a confidare: «A questo catechismo, al quale avevo pensato prima con tanta compiacenza, confesso di non aver capito molto. Ogni istante involontariamente mi ponevo la domanda ansiosa: dunque, che cosa vuole insegnarci?» Ma questo stato d'animo si comprende facilmente sapendo che Don Vibot, quando nel 1857 venne ad Ars, era dolorosamente incerto sul proprio avvenire e che durante tutta la predica si domandava che cosa gli avrebbe detto il servo di Dio in un abboccamento che doveva aver luogo subito dopo il catechismo. Al contrario, altri pellegrini, anche distinti, non si stancavano di ascoltare queste istruzioni familiari. Il vescovo di Meaux, Monsignor Allù, che dimorò 8 giorni al castello d'Ars, non mancò a nessuna istruzione e se ne partì meravigliato. I missionari che vennero ad aiutare il santo quando fu più intenso il pellegrinaggio si univano ai pellegrini, confondendosi tra la folla, ogni volta gli impegni lo permettessero. Don Vianney poteva anche ripetersi, la sua parola aveva per essi sempre qualche cosa di nuovo. Ma il momento più bello, più commovente, più patetico della sua giornata era quando Don Vianney usciva dalla chiesa per andare a prendere il suo modesto passo, dopo di aver recitato l'Angelus in ginocchio davanti all'altare. Per giungere alla canonica doveva fare solo 10 metri di strada, ma ogni giorno vi impiegava non meno di un quarto d'ora. I pellegrini facevano come una siepe nel vestibolo del campanile e nel ristretto passaggio fino alla porta di casa. Erano tutti coloro che non intendevano confessarsi, ma che avevano una parola da dirgli, una preghiera da indirizzargli e che si pigiavano per essere i primi a vederlo. Anche i malati, che non avevano potuto essere introdotti in chiesa, stavano là, appoggiati alle loro grucce o su barelle portate da parenti ed amici, assieme ai bambini che non potevano rimanere a lungo in chiesa. Appena compariva, abbracciava con uno sguardo tutte queste persone strane, la maggior parte delle quali non lo aveva visto ancora e che spontaneamente erano cadute in ginocchio. Succedeva un istante di impressionante silenzio a cui facevano seguito esclamazioni irresistibili. «Buon padre, santo padre, beneditemi, pregate per il nostro ammalato, guarite questo povero bambino, convertite mio padre, convertite mio marito». Come rispondere a tutte queste suppliche? Molti dovevano accontentarsi di uno sguardo, di un sorriso o di una lacrima del santo che passava dicendo una parola ed indicando il cielo. Accarezzava i bambini e poneva le sue mani sante sulle loro teste bionde. Don Monnet, sacerdote in riposo al villaggio d'Ars, a 75 anni ricordava ancora con commozione le mani tremanti del santo vegliardo poste sul suo capo di fanciullo e la benedizione alla quale pensava dovere la sua vocazione sacerdotale. Qualche volta, per liberare la porta della sua canonica ed entrarvi solo, in quell'ora in cui non ammetteva nessuno, usava un'astuzia innocente tanto cara ai pellegrini. Gettava fra la folla un pugno di medaglie e mentre si raccoglievano quelle entrava in casa e chiudeva la porta col catenaccio. Un pasto molto spiccio e le visite ai malati. A quell'ora trovava nella sua camera la porzione di cibo che gli si era portato dalla provvidenza, secondo il regime di cui abbiamo dato un'idea e che meglio avremo occasione di conoscere. Don Vianney consumava il suo pasto stando in piedi, mentre scorreva la corrispondenza che gli veniva collocata vicino alla scodella nella quale gli venivano serviti la minestra e i legumi. Un tale desinare era così spiccio che, secondo fratello Atanasio, un giorno il santo ebbe a dire: «Da mezzogiorno all'una ho potuto desinare, ripulire la mia camera, fare la barba, dormire e visitare i miei malati». Era sempre stata molto cara a Don Vianney la visita ai malati, e per malati intendiamo non solamente quelli d'Ars, ma anche i forestieri che, ricoverati in alberghi o case private di questo villaggio, desideravano vedere ed udire il santo. Molti di essi erano stati così profondamente colpiti dai fatti d'Ars che si erano fatti condurre là per morire assistiti e consolati dal santo. Quando nel 1845 ebbe un vicario, gli lasciò tutti gli altri atti del suo ministero parrocchiale, ma volle riservare a sé la visita ai malati. Verso mezzogiorno e mezzo, Don Vianney lasciava la canonica per visitare qualche ammalato. Si rinnovava allora ancora una volta la scena commovente del mezzogiorno. La folla che era rimasta in attesa gli faceva ressa attorno ed egli non riusciva a discendere la scalinata della chiesa ed attraversare la piazza senza l'aiuto di 2 o 3 uomini di buona volontà, i suoi custodi, che camminavano davanti a lui tenendo le braccia distese per impedire che il santo fosse vittima di una venerazione indiscreta. Ma ciò non impediva che qualche volta gli si tagliassero pezzetti della veste o della cotta ed anche ciocche di capelli. Qualche volta l'audace indiscrezione arrivò al punto che gli si tolse bruscamente il breviario, che non gli veniva reso senza prima avervi elevata qualche immagine, o addirittura non gli veniva più restituito. Don Vianney, abituato alle indiscrezioni della folla, sopportava questi furti senza lamenti. Non mancò neppure il caso di sbagli interessanti e divertenti. La fretta dei fedeli ad impossessarsi di oggetti appartenenti al servo di Dio, asserisce Don Dufourne, che fu spesso incaricato del servizio d'ordine, fu la causa che almeno due volte fossi derubato anch'io dalla folla, la quale credeva di avere a che fare con Don Vianney. Un giorno mi si rubò il breviario, che fu spedito poi per posta al mio indirizzo a Saint-Étienne. Quando me ne lamentai con il santo, mi confessò che questo era successo più volte anche a lui. Un altro giorno, causa l'oscurità che impediva di vedere bene e di conoscere, venne tagliato un pezzo di stoffa della mia veste. Era perciò impossibile che il curato d'Ars si presentasse in pubblico senza che fosse tosto circondato dalla folla, che non lasciava mai la chiesa o le adiacenze del luogo santo se non per seguire i suoi passi. Qualche volta lo si accompagnava fin presso i malati. Anche alcuni preti domandavano a lui il favore di accompagnarlo al capezzale dei morenti per ascoltarlo e riportarne edificazione. Don Taillad, che per due volte ebbe la fortuna di vederlo amministrare gli ultimi sacramenti, ha asserito: «Io non ho mai sentito parlare dell'altra vita con tanta fede e con tanta convinzione. Si sarebbe detto che coi suoi stessi occhi contemplasse ciò di cui parlava, quando consolava i poveri infermi e rianimava la loro confidenza. Si sarebbe voluto morire fra le sue mani». La folla si preparava a circondarlo ancora quando usciva dai malati. Si sapeva che le sue tasche erano sempre gonfie di croci, rosari e medaglie, ed era una gioia il ricevere qualche cosa direttamente dalle sue mani. Per questo motivo, i più industriosi si inginocchiavano varie volte al suo passaggio per ricevere la sua benedizione, ma anche per avere parte a distribuzioni nuove. In questo modo una giovane di Lione poté raccogliere un vero tesoro per la benigna tolleranza del santo che pure tutto vedeva. Era venuto per passare tre giorni ad Ars ed ogni volta assistette al suo passaggio con le mani tese. Il terzo giorno, ha confessato ella stessa dopo che si era fatta religiosa, mi consegnò una croce ed una medaglia dicendomi: «Figliola, ora sono 17». Contai e vide che nei tre giorni avevo ricevuto 17 medaglie. La provvista del santo si consumava presto, ma egli non si inquietava, perché ben sapeva che i pellegrini vi avrebbero provveduto. Un giorno i due fratelli Lehmann, convertiti dal giudaismo, così bene accolti da Don Vianney, uscendo dal villaggio, incontrarono la folla. Era, dicono essi, il corteggio fatto al curato di ritorno dalla visita ai malati, che ripeteva la scena dei tempi messianici, quando la folla si affrettava a raccogliersi attorno al maestro. Ci riconobbe tosto e noi, con la spensieratezza della gioventù, gli chiedemmo: «Signor curato, avete già distribuito le medaglie? Noi non ne abbiamo ancora». Sorrise e, rivolgendosi ad una mercante che stava sulla soglia del suo piccolo magazzino, le disse: «Portatemi per favore un pugno di medaglie». Avutele, le benedisse e ce ne diede in abbondanza, dicendo alla mercante: «Voi le farete poi pagare da chi vorrete». La donna, felice di aver potuto accontentare il suo curato, si inchinò, ben sicura di non perdere nulla, forse perché non era la prima volta che faceva simili vendite. Eccetto che si trattasse di casi urgenti, molto spesso la visita ai malati era preceduta da un'altra visita, che Don Vianney amava fare ogni giorno, la visita alle orfane della provvidenza, che pure erano felici di rivederlo. E che gioia per lui e per le ricoverate in questi incontri! Quando dal settembre 1853 in poi la parte della casa attigua alla cappella divenne la dimora di Don Toccanieri e dei suoi successori, Don Vianney non dimenticò di visitare anche i suoi cari missionari, i suoi compagni, come egli amava chiamarli con familiarità. Qualche volta giungeva là verso la fine del desinare, quando gustavano la frutta che pure a lui piaceva tanto. Non ne accettava mai però, per spirito di penitenza, e rimaneva in piedi appoggiata alla porta, parlando quasi sempre egli solo per tagliare corto ad ogni adulazione, dimostrandosi sempre amabile, contento e anche piacevolmente lepido. La sola cosa che talvolta volle accettare fu un po' di caffè, che sorbiva senza zucchero e che trovava molto amaro. La seconda parte della giornata del curato d'Ars. Appena però gli era possibile, lasciava tutto per ritornare alla sua chiesa, ove, inginocchiatosi sul pavimento davanti all'altare maggiore, con fervore angelico recitava Vespro e Compieta, poi ritornava ai poveri peccatori. Confessate le donne fin verso le ore 17, rientrava in canonica per pochi minuti, passando poi alla sagrestia per confessare gli uomini fino alle 19:30 o alle 20. A quest'ora saliva il pulpito per la recita del Rosario dell'Immacolata Concezione e delle preghiere della sera, rientrando subito in casa per dare udienza, sempre con la massima amabilità, ai missionari, ai fratelli, a preti e laici venuti da lontano. Dopodiché si ritirava nella sua camera per passare ancora gran parte della notte in preghiera. Sono questi i termini coi quali il fedele Oriol, che essendo in dimestichezza col nostro santo fu ammesso tante volte agli intimi trattenimenti della sera, ha descritto la seconda parte della giornata del curato d'Ars. Non ci ha detto come facesse la preghiera della sera, ma ce ne darà conto un altro testimonio, il signor Brac della Perrier. Non lo potei vedere, causa la navata della chiesa quasi oscura, ed appena intesi qualche parola, perché la sua voce debole non giungeva tanto facilmente ai fedeli, posti a qualche distanza da lui. Ma dopo pochi istanti l'orecchio si abituava al bisbiglio della preghiera e la pupilla si adattava alla mistica oscurità del luogo santo, ed allora non si intendeva che un dolce mormorio, ora interrotto, ora venti periodi di uguale durata, e si era presto conquistati da quel colloquio misterioso che portava insensibilmente ad un raccoglimento profondo che dilatava l'anima e la faceva pregare con l'aiuto di tutti. Oriol non ha però ancora detto nulla di ciò che il povero curato facesse appena entrato nella sua misera camera. Per quanto fosse già stanco, recitava ancora mattutino e lodi del giorno seguente e non ometteva di leggere qualche pagina della Vita dei Santi, suo libro preferito. Quale eroismo per arrivare ogni sera fino al termine stabilito della sua lettura. Fratello Atanasio ricorda di averlo visto qualche volta ritornare in canonica così stanco da non riuscire a salire le scale se non con grande fatica. Qualche altra volta cadeva contro il muro e allora scherzava sulla sua debolezza, facendo allusione ad una parola piena di malignità detta a suo riguardo. «Ah, dunque il vecchio stregone oggi ha fatto bene i suoi affari!» Si può ritenere che non concedesse al suo corpo più di 3 ore di riposo. Un buon uomo d'Ars si chiedeva, ma quando dorme il curato? Lo si vede sempre alzato. E Don Monin scrisse che la sua finestra era sempre illuminata. La ragione è che durante le sue crudeli flagellazioni e quando, coricato e non turbato dal demonio, non veniva subito sorpreso dal sonno, lasciava acceso il lume per poter contemplare le immagini dei santi che tappezzavano una parete della sua camera. Ne faceva fede egli medesimo. Quando non dormo, diceva, mi fa piacere guardare i miei quadri. Se si assopiva, appena riapriva gli occhi, era ancora là che li rivolgeva. Confidava alla contessa di Garez. Durante la notte, quando mi sveglio, sembra mi guardino e dicano, su, pigro, tu dormi e noi passiamo il tempo a vegliare ed a pregare il Signore. Ma egli nulla diceva delle sofferenze della notte, della sovraeccitazione nervosa dovuta alle spaventevoli fatiche della sua giornata, di questa febbre che lo agitava nel suo povero giaciglio e della tosse che lo costringeva ad alzarsi più volte in un'ora. Malgrado tutto questo, quando veniva il momento fissato per scendere in chiesa, lasciava il suo duro pagliericcio per recarsi a riprendere di nuovo il suo santo ed interminabile lavoro, al punto al quale lo aveva lasciato. La vita interiore del curato d'Ars. Ma ciò che vi ha di più meraviglioso in questa vita così sacrificata per gli altri è che si è svolta nel medesimo tempo fra un movimento continuo delle folle ed un raccoglimento profondo. Lo si importunava in ogni maniera, ma non v'era nulla che sembrasse turbare la sua vita interiore. Donde venisse questa calma e completa padronanza di sé, ne dà spiegazione il pio canonico Gardet, cappellano del Carmelo di Chalon-sur-Saône, testimonio di non dubbia fede, quando dice: «Un giorno, in mia presenza, Don Vianney si è così espresso: come vorrei perdermi e non trovarmi che in Dio. Vedendola all'opera, non era difficile convincersi che il suo voto era stato realizzato. Era tanto il suo abbandono al beneplacito divino che anche in mezzo all'azione così varia e così faticosa del suo ministero rimaneva sempre raccolto come quando compiva i suoi esercizi di pietà e si sarebbe detto che non aveva da fare altro che ciò che stava compiendo. Era guidato sempre dalla sollecitudine dello zelo e non da inclinazioni naturali e bastava osservarlo per convincersi che in nessuna ora della sua giornata mai era turbata la libertà di spirito, la dolcezza di carattere, il riflesso della pace interiore. E non è questa la pratica ideale dell'unione con Dio, lo sviluppo completo per quanto è possibile dell'amore perfetto? Un'anima che non è unita a Dio come al suo centro può muoversi in una cerchia di azioni sante senza avere la santità. Don Vianney, per sfuggire a questo pericolo, ogni momento, in pulpito, in confessionale o fra le diverse occupazioni del suo ministero, elevava il suo cuore a Dio, essendosi fatta l'abitudine di uscire da Dio per l'azione, quando ciò fosse strettamente necessario, e di rientrare in Dio con la preghiera, appena gli fosse possibile. Dalle sue stesse parole ci è dato comprendere che la preghiera era per lui la dolce e soave consolazione dell'anima e il rifugio abituale. È come una rosa profumatissima, diceva. Più si prega e più si vorrebbe pregare. Il tempo non è lungo quando si prega. Se durante tutta la sua vita non ha fatto che desiderare ardentemente la solitudine, non aveva altro motivo vero che la brama di darsi con maggiore libertà alla preghiera e alla contemplazione delle cose di Dio. Ma a lui, che viveva in questo desiderio, non era neppure dato di raccogliersi, come facevano i suoi confratelli, per gli annuali esercizi spirituali. Quando nel 1835 si presentò per l'ultima volta al seminario di Bru per ritemprare la sua anima, Monsignor Devi lo congedò prima che ascoltasse la predica di introduzione. «Non avete bisogno di esercizi», gli disse il prelato. «Andate, vi sono i peccatori che hanno invece bisogno di voi». Ed il buon curato era ritornato ad Ars senza la minima obiezione. Fra le continue occupazioni, il suo pensiero evocava ricordi di altri tempi, trascorsi nella pacifica solitudine dei campi, ed allora la sua anima non aveva che gemiti. Come ero felice. Non avevo tante occupazioni come ora e pregavo il Dio a piacimento. Credo che la mia vocazione fosse di rimanere pastore per tutta la vita. Ma almeno nei primi anni della sua vita di ministero aveva potuto accontentare la sua santa passione della preghiera. E già allora doveva essere giunto a quel grado superiore di preghiera che si chiama orazione di semplicità, nel quale l'intuizione sostituisce gran parte del ragionamento e affezioni e risoluzioni ridotte all'essenziale raggiungono quasi un'espressione unica. Prima che avesse inizio il pellegrinaggio d'Ars, ha scritto Don Claudio Rougemont, vicario d'Ars, sulla scorta delle prime testimonianze, Don Vianney era sempre in chiesa, in ginocchio e pregava senza servirsi di alcun libro. La sua, infatti, era piuttosto una orazione affettiva, fatta senza riflessioni e ragionamenti. Seguendo il metodo raccolto dalle labbra del buon Chafajon che gli aveva confidato, io guardo il buon Dio ed il buon Dio mi guarda. Gli bastava fissare con lo sguardo il tabernacolo e ridire incessantemente la protesta del suo amore a Dio. Quando l'affluire dei pellegrini non gli permise più di concedere lungo tempo all'orazione, seguì la pratica di scegliere al mattino un argomento di meditazione che teneva presente in tutte le azioni della giornata. Don Dufour, che gli chiese un giorno dei consigli sulla preghiera, ebbe questa risposta: «Al presente non ho più il tempo di fare la mia preghiera regolarmente e per questo fin dal principio della mia giornata mi sforzo di unirmi intimamente al nostro Signore ed opero col pensiero di quest'unione». Don Dufour da queste parole poteva trarre la conclusione: La vita di Don Vianney era una preghiera continua. In ogni istante della giornata il suo pensiero correva a qualche fatto della vita di Nostro Signore, della Santa Vergine e dei Santi, con una spiccata preferenza per i misteri dolorosi, considerando i quali seguiva il Redentore nelle diverse stazioni fino al Calvario. Per questo aveva dato incarico alla buona Caterina Lassagne di segnare le stazioni sui margini delle pagine del suo breviario, sulle quali seguiva recitando le sue ore con gli occhi bagnati di lacrime di compassione le diverse scene della Passione. Quando attraversava la folla era talvolta così immerso nei suoi pii pensieri che sembrava solo. Anche in pieno movimento rimaneva ancora il contemplativo che aveva desiderato di essere sempre. La sua vita era la realizzazione integrale di questo pensiero profondo nato dalla sua riflessione. La fede è parlare a Dio come si parlerebbe a un uomo. A poco gli anni e le fatiche eroiche piegarono le sue spalle e fecero comparire le rughe sul suo volto, ma il suo spirito era rimasto sempre giovane, quasi non avesse conosciuto che la stagione di un incessante rinnovamento. Anche su ciò, con parola poetica, aveva detto un pensiero tutto suo: «Nell'anima unita a Dio è sempre primavera». Il sentimento della presenza di Dio gli era causa di ineffabili dolcezze, espresse in veri trasporti di gioia. Caterina Lassagne dice: «Quando lo vedevo con quest'area di straordinaria felicità, io dicevo a fratel Gerolamo: oggi il curato è pieno d'amor di Dio». Ma il santo non desiderava queste consolazioni per se stesse. «Quando non si hanno consolazioni», aveva detto un giorno, «si serve Dio per se stesso. Quando si hanno consolazioni, si è tentati di servirlo per interesse». Ma queste intime dolcezze, pegno dell'amore del suo Dio e delle sue adorabili condiscendenze, lo aiutavano a vivere e gli davano coraggio, anche perché ben sapeva che, ammesso alla intimità familiare del suo maestro, avrebbe potuto ottenere maggiori favori. «Dio è così unito ai suoi santi», diceva egli un giorno, «che sembra compire più la loro volontà che la sua». Quando gli si fece notare che egli medesimo otteneva da Santa Filomena tutto quello che voleva, in modo che ella sembrasse e gli obbedisse sempre, rispose: «Non vi è nulla di straordinario in tutto questo. Dio stesso obbedisce a me durante la Santa Messa». Ma non si pensi che nelle sue ore di giocondità venisse meno in lui la semplicità deliziosa. Anche allora non vi era nessuna parvenza di affettazione, nessuna esclamazione incomposta, nessun sospiro o slancio esagerato, ma sempre il suo sorriso indicibile, ultraterreno, che mai dimenticherà chi lo vide una volta fiorire sulle sue labbra.